perché sono innamorata, sono proprio tanto tanto innamorata. Oggi canto la canzone che viene dal cuore, quanto amore, quanto amore. Non ancora sulla bocca mai baciata, ma tremando lungamente mai guardata, e con gli occhi dolcemente mai portata, in un sogno tutto da tu. Quello sguardo d'amore, tu m'hai preso l'anima e il cuore, del mio cuore ti faccio un dono appassionato, perché oggi sono tanto innamorata, dammi un bacio che l'amore non è peccato, il mio cuore non desidera. Oggi mi son destata, tutto era nuovo in me, con l'anima incantata ho ritrovato te. Ho salutato il sole, il mondo tutto do, mentre cantava il cuore questa canzone d'amore. Non ancora sulla bocca mai baciata, ma tremando lungamente mai guardata, e con gli occhi dolcemente mai portata, in un sogno tutto da tu, con quello sguardo d'amore, tu m'hai preso l'anima e il cuore, del mio cuore ti faccio un dono appassionato, perché oggi sono tanto innamorata, dammi un bacio che l'amor non è peccato, il mio cuore non desidera.